Quarta e ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco degli Holborn, New Rock Generation. Come si chiamava questa canzone? Questa canzone era Rock and Love. Ogni volta che ascolto questa canzone penso che il riff principale di chitarra sia veramente molto figo. Quali ora i progetti per il futuro prossimo della band? Di progetti ce ne sono molti in realtà. Sicuramente al primo posto c'è quello della nostra tournée in giro per l'Italia per promuovere il nostro disco. L'abbiamo già cominciato in realtà in alcune città italiane, insomma tra Milano, Verona, e ora ce ne aspettano tante altre, magari vi parleremo più tardi. Nel nostro futuro poi noi ci aspettiamo una crescita da un punto di vista tecnico, musicale e anche da un punto di vista produttivo, insomma. Contiamo di tornare in studio abbastanza presto. Siamo al quinto brano, cosa scegliete di far sentire? Al quinto brano scegliamo Blue Sky. Il tempo come sempre vola e noi siamo quasi alla fine di puntata. A voi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso Media Player. Grazie agli Holborn per la partecipazione, a questo punto di nuovo voi la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco ed alcuni live in programmazione. Innanzitutto grazie a te. Poi ricordo a tutti quanti che il nostro sito internet ufficiale è www.holborn.net. Inoltre invito tutti quanti a venire a cercarci su Facebook, sulla nostra pagina nome Holborn, sul nostro MySpace, sul nostro Twitter, e anche venite a vedere il nostro fantastico video su YouTube a nome Holborn Life Goes On, il nome del nostro singolo. Infine la nostra mail holborn.band@gmail.com. Il nostro CD inoltre potete trovarlo in tutti i migliori negozi d'Italia, come alla Fnac o alla Mondadori di Milano, dove abbiamo già fatto la nostra presentazione. Potete trovarlo su iTunes, potete ordinarlo direttamente sul nostro sito ufficiale. Insomma, venite, contattateci anche via internet per sapere appunto dove trovare il nostro disco. Per concludere allora i nostri prossimi concerti, noi saremo il 17 febbraio al Die Hard a Codigo Oro di Ferrara, il 10 marzo al Lawrence Wirt di Negrar, il 18 marzo al Borderline di Pisa e il 23 marzo al Fahrenheit di Padova. Ringraziamo di nuovo Gianluca, sì, RCS e tutti voi che ci avete ascoltato. Un saluto dagli Holborn. E dunque Gianluca e gli Holborn, a proposito, prima la canzone, dobbiamo chiudere la puntata allora? Allora, la canzone con cui chiudiamo la puntata è uno dei pezzi più significativi del nostro album, ecco a voi Immortal Dream. E dicevamo, Gianluca e gli Holborn vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao!